Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parte il cross verso Pogba, la mette giù, prova il tiro, rete, scavalcato Donnarumma, Juve in vantaggio, Pogba. Si va alla volata con Ayman che è in prima posizione, poi Bonen, ma è Matthew Ayman, la vittoria di Matthew Ayman per la seconda volta nella storia della Parigi-Roubaix. El Kadouri mette il pallone in mezzo, Callejon. 3-0 del Napoli, è tornato al gol anche Callejon. Sul muretto tutto il team di Marquez che butta in piedi la sua moto a guardare il cielo del Texas. Marquez c'è, vince il Gran Premio degli Stati Uniti, fortifica la sua prima posizione. La posizione regolare di Jamie Vardy che prova a fuggire, Vardy supera l'avversario, supera anche Mannone, Jamie Vardy è l'ombrino del long drink della partita dell'Leicester che vola a 10 punti di vantaggio sul Tottenham. Have tied the record for most wins in a season, 72, with the 1995-96 Chicago Bulls. Eccovi la spremuta del weekend distillata da Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. E sia stato un weekend di storie, se vogliamo, di provincia, la provincia del mondo sportivo, con le lacrime di Ranieri. Abbiamo visto dappertutto su tutti i giornali, meravigliose, dopo la vittoria del suo Leicester sempre più vicino al titolo nel calcio italiano. Vogliamo distacchi invariati, aspettiamo Roma-Bologna di stasera, ma nulla si è mosso e nulla è successo, grosso modo, almeno in vetta alla classifica. Se vogliamo rimanere in provincia, c'è anche l'Empoli che vince il derby con una Fiorentina sempre più depressa e con Paolo Sosa sempre più circondato da emissari di altri club, c'erano quelli dello Zenit e lo sappiamo. Golden State è stata per anni una franchigia marginale nel mondo NBA, ora sono campione in carica, ma ha raggiunto un record strepitoso, cioè ha pareggiato per il momento il record storico di una squadra epocale, 72 vittorie in stagione. Gli altri erano i Chicago Bulls del 95 di Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Phil Jackson, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ce n'è stata un'altra, dalle nostre parti, di meravigliosa storia di provincia, che di proposito non abbiamo inserito in copertina, ma tra poco vi raccontiamo. Ciao Pierluigi Pardo! Come va? Come va? Dai, ci siamo divertiti, no, nel weekend? Sì, molto bene, tutto molto bello. Tutto molto bello, fai di proposito l'accento inglese in omaggio a Claudio Ranieri. Lo facevo più vecchio, più anziano, sai Ranieri. 64 anni, non avevo presenti i dati anagrafici. Perché ma... Mourinho aveva detto 70 anni. Sì, anche Mourinho si è convertito. Si è convertito al ranierismo, fa il tifo per lui. Chi è che non fa il tifo per lui? Non lo so, devo trovare qualcuno. Il principe ha detto che è dalla sua parte. Noi italiani, vabbè, a prescindere. Sì, posso dirti, io veramente rivendico questa cosa. Cioè che la simpatia per la storia dell'Leicester di quest'anno è una simpatia che è indipendente dal fatto che siamo italiani. Credo che non ci siano dubbi su questo. Dai, no, perché, no, certo. Perché certo. Secondo me quello che sta facendo è un capolavoro che se anche fosse greco o francese... Sì, lo sarebbe lo stesso. È una storia di calcio, poi impreziosita dal fatto che c'è Mister Ranieri in panchina. Allora, non abbiamo incluso nella copertina di proposito una delle grandissime storie di questo weekend, che è quella di Castelmaggiore... Pallavolo femminile sul tetto d'Europa dopo aver abbattuto la ricchissima Istanbul. Allenatore di questa squadra è Massimo Marbolini, ex CT della nazionale italiana. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Grazie per aver riportato quel titolo in Italia, in una città di 15-18 mila, Castelmaggiore alle porte di Bologna. qualcosa del alle genere. Alle porte di Parma, via. Di Parma, siamo verso una ventina di chilometri da Parma. Sì. Cosa facciamo? Sì, 15.000? Gli abitanti sono quelli, sì. Gli abitanti poco sono... più. Gli abitanti sono quelli ed è, se non mi sbaglio, la città più piccola ad aver mai alzato la Champions League femminile di pallavolo. Penso di sì. Una piccola era stata Matera, l'aveva alzata 20 anni fa e più, e adesso è stata la volta di Casalmaggiore. Veramente una cosa particolare, molto bella. Sì, stavamo parlando di Ranieri e di imprese sportive leggendarie, io e Pierluigi Pardo, che si stanno consumando. Inseriamo anche questa nel novero? Ma penso che il paragone sia abbastanza calzante, nel senso, sicuramente se si ragiona sui budget, nel senso che penso che la proporzione tra noi e le varie squadre di Champions che abbiamo battute sia più o meno quella, può esserci tra il Leicester e i vari Manchester United, Chelsea e chi più ne ha più ne metta. Probabilmente la differenza c'è un pochino sull'aspetto tecnico, la qualità dei giocatori, nel senso che il Leicester probabilmente ha molti illustri sconosciuti, mentre a Casalmaggiore il gruppo delle atlete era un gruppo di giocatrici, già un gruppo di giocatrici affermate, certo, e sicuramente di grande esperienza internazionale. Sì, Pierluigi Pardo, l'estratto conto non va in campo neanche nella pallavolo, lo sappiamo, no? No, però qui io sono chiaramente a media, detta premium, siamo tutti molto gasati, poi c'è il direttore che ha una grande passione per il volley femminile. Tre figlie che giocano a pallavolo. Abbiamo raccontato, mi sembra una di quelle storie bellissime, proprio quelle storie dello sport, capace di sorprenderti, capace di emozionarti, quindi non posso far altro che i complimenti, ne so poco, però grazie. Stanotte l'ho divorata quando poi l'ho rivista in replica e devo dire è stato veramente emozionante. All'interno di questa storia c'è quella personale di Massimo Barbolini con la bandiera di questa squadra, Francesca Piccinini. Sì, Francesca è stata importantissima, ha fatto tantissimo e non a caso è la sesta Champions League che vince, non è che per caso, già non se ne vince una per caso, vincerne sei assolutamente no. E comunque è stato il gruppo che la nostra squadra, penso davvero, delle volte si dice così perché quasi sembra quasi una frase fatta, ma non lo è, perché penso che proprio questa squadra ha vinto perché ha saputo giocare tutti insieme. Io facevo un esempio, come la semifinale tutte le giocatrici sono andate in doppia cifra, che è un dato nella pallavolo che non è tanto facile da ottenere, e questo vuol dire un grande equilibrio di squadra. E l'altro canto è l'unica possibilità per vincere contro queste corazzate straniere che si presentano anche con panchine milionarie quasi. Senti, ma cosa pensi, Massimo? Ultima cosa che ti chiedo, quando senti Sarri parlare di fatturato, quando senti molti allenatori di altri sport parlare di fatturato, e senza il fatturato non si può vincere? No, poi fai una domanda a uno juventino, quindi sì. Adesso è abbastanza attuale come domanda, no? Sempre. No, ma sicuramente avere un grosso budget è sicuramente un grande vantaggio, non bisogna nasconderlo, però secondo me bisogna anche saperli spendere bene i soldi. Io penso che il passo importante da parte del lavoro è quello dei diritti. Non riesco più a sentire Massimo Barbolini. No, io tra l'altro avevo una domanda adesso interessante, forse esagerata, però insomma, sto scherzando ovviamente, no, che è stato un po' il weekend dei 37enni, 38enni, perché c'è stato Buffon e la Piccinini. Uh-huh. Quindi se lo recuperiamo vorrei capire se Massimo ci sei. Coach, no, non riusciamo più a prendere, abbiamo il traffico, ma lo ribecchiamo, top. Proviamo a ribeccarlo dopo il traffico. Tutti convocati. Convocati. Allora, abbiamo recuperato Massimo Barbolini, coach della Pomì Casalmaggiore, campione d'Europa. Si è aggiunta alla compagnia anche Maurizio Crosetti. C'era Pardo che voleva fare una domanda a Barbolini. Chissà se Crosetti, che oggi ha scritto l'avventura delle ragazze di Casalmaggiore che alzano la Champions League del volley, meraviglioso sport di provincia, di bambine e genitori. Quanti sabati e domeniche così, quante serie di allenamenti nella nebbia col rumore che fa la palla quando picchia sul legno. Allora, andiamo con ordine. Ciao Maurizio. Intanto. Eccoci qua, buongiorno e complimenti per questa grande impresa. Ci ricordiamo di queste cose ogni tanto, quando succedono e siamo colpevolmente zitti, a meno che non si abbiano avuto figli che giocavano a pallavolo, cioè tutti noi li abbiamo avuti, e quindi in qualche maniera sentiamo ancora più nostre queste cose. Però è un po' come quando alle Olimpiadi scopriamo gli sport più belli. Mentre scrivi avresti quasi voglia di chiedere scusa, perché passi il tempo a parlare di Ibrahimovic, soltanto del Palermo, degli ultra, delle polemiche, mentre questo è la nostra passione, ma c'è anche dell'altro. Sì, c'è anche dell'altro. Maurizio, dobbiamo riagganciare Barbolini, che Pardo aveva una domanda sui 37enni, eccolo qui. Pierluigi. Sì, no, visto che è stato il weekend della Piccinini e di Buffon, ovviamente poi vincono le squadre, non vincono i singoli, volevo capire se il paragone ci poteva stare in termini non soltanto tecnici nella tua squadra, ma soprattutto di esperienza e di personalità. Insomma, la vittoria contro il Milan porta la firma di Buffon, ma Buffon è stato in questa stagione per la Juve qualcosa di importantissimo in tanti momenti. Forse il momento più importante è stato proprio dopo questa solo Juve, quando ci ha messo la faccia e in qualche modo ha fatto l'allenatore aggiunto provocando la svolta. È un paragone che esiste nella Pomì? Ma sì, può esistere. Comunque è importante sicuramente il concetto di quello di Buffon, di un giocatore che ha dato la sveglia alla squadra. Quello è stato molto importante, penso, perché quando questi messaggi arrivano dai giocatori piuttosto che dagli allenatori, nelle squadre sono sicuramente molto più recepiti. Grazie coach, complimenti. Grazie di nuovo. Grazie, grazie, grazie Massimo Barbolini. Sport è così, Maurizio, dopo una settimana di velenosa come uno scorpione, sul ponte del weekend transita la provincia, come scrivi tu oggi, partendo da Ranieri, arrivando a Casalmaggiore e facendo un giro per la Rubé e per tutti i territori della provincia sportiva. Sì, e qui bisogna dire che quando parliamo di provincia noi ci mettiamo in piedi, perché poi purtroppo il nostro paese, che è un paese intriso di provincia, per fortuna innervato di provincia, di campagna, di tangenziali che portano verso fuori delle città, insomma è un paese il nostro che non deve vergognarsi di essere provinciale e soprattutto non deve vivere questa parola nell'accezione negativa. E quindi la provincia vuol dire tutto ciò che non è sempre al centro della nostra attenzione, sempre sotto il riflettore, quella che anche alle volte è un'ossessione giornalistica. Riuscire a porre uno sguardo un po' più ampio, un po' più laterale, aiuta a vedere storie bellissime come quelle di ieri, una domenica che ne ha regalate insieme tante, una meglio dell'altra, alle lacrime di Ranieri, all'Ester, provincia della Premier League, le pedalate sul pavé di Hyman, un 38enne australiano che non vinceva una corsa da 5 anni addirittura, si porta a casa la più grande del mondo. Mettiamoci anche lui nei 37enni, 38enni cui faceva riferimento Pardo. Sì, è comunque una generazione, ma se ci sarebbe quasi voglia di avere 37 anni, ovviamente solo per questo, solo perché sono dei vincenti, mica per altri motivi. Beh, Pardo c'è vicino, sì, è il più giovane della compagnia. Io lo odio comunque, molto per questa sua vicinanza. Sì, ma 4-5 in meno farebbero comodo anche a me, perché poi questo non c'è niente da fare. Si punta, sai, ti dico no, ma sto meglio adesso. Ma meglio. Però detto questo, sì, siamo. Di che parliamo? Dello sport? Parliamo dello sport. Quello che ha detto Cross è perfetto, ed è a me, mentre sentivo quelle righe, insomma, dedicate al rumore del pallone che picchia, mi è tornato in mente un pallone di quelli nel quale si gioca a basket di Piazza Mancini a Roma, quando giocavo in maniera modestissima 25 anni fa. Insomma, chiunque abbia praticato lo sport a qualsiasi livello, penso che si riconosca la bellezza, sì, esatto, no? Si riconosca quasi in quel anche rumore, quel profumo. È proprio un fatto fisico, cioè no, adesso non voglio prenderla troppo alta, però è davvero la nostra Madeleine, sono i nostri ricordi corporali, viscerali che si svegliano. Cioè io dicevo il pallone che picchia sul legno, ma per esempio il rumore, il fischio, il raschio delle scarpette da ginnastica sul linoleum, perché nelle palestre di scuola quasi mai c'era il palchetto, solo in quelle più lussuose, no? Di solito si giocava sul linoleum. Gli odori, le puzze anche, le luci che filtrano in un certo modo dalle finestre delle palestre a una certa ora della sera quando ci si allena, e fuori magari c'è deserto, ci sono solo lampioni, periferia, qualche macchina che passa. È questo lo sport che ci ha portato a raccontare anche l'altro. Quando entriamo a Wembley, quando entriamo al Camp Nou, Siamo noi che siamo entrati nei campetti di provincia a vedere la promozione, l'eccellenza, proprio come se fosse stata la stessa cosa. Non c'è differenza, è per questo che bisogna smetterla col considerare minore quell'altro sport. Quell'altro sport è maggiore o è comunque grande quanto quello che ci appassiona la domenica, perché fa parte davvero, se lo amiamo, del nostro sangue. È come se l'avessimo mangiato, è come se ci avesse creato sostanza sulle ossa. Io la vivo così. Lo sport è sempre maggiore, perché tu puoi raccontare una partita di un campionato di eccellenza, di promozione, ma per quei bambini o per quei semidilettanti che lo giocano magari anche a 35 anni, quella lì è sempre comunque la finale di Champions League. La finale di Champions League è nelle partite di calcetto del lunedì sera di tantissimi ragazzi italiani che è come se si giocassero la vita scendendo in campo, e poi magari si fanno anche il menisco e il giorno dopo vanno in banca zoppicando, però sì, questa sì. La bellezza è questa cosa qui, ragazzi. Posso trascinarvi sulla terra? Sì, scusa, siete altissimi, meravigliosi, ma ci prepariamo al Vinitali. Ci prepariamo al Vinitali domani e dopo doppietta. E vi chiedo se secondo voi c'era qualcuno di quei signorini di Palermo e Lazio in Senato martedì, secondo voi? Beh, potrebbero arrivarci, magari li hanno dimenticati per una imperdonabile svista di chi ha stilato l'elenco, la mailing list, ma siamo sicuri che vista l'attenzione, i privilegi e le porte aperte, forse con l'inchino e il tappeto rosso che hanno fatto a certi signori, vedrete che quei tizi di Palermo la prossima volta andranno, magari a camere riunite, magari proprio quello che prendeva a calci il tifoso per terra, che lo picchiava in testa, ecco, se si facesse un fermo immagine, una bella ricerca... Non per metterlo in galera, per carità, ma per invitarlo al Senato sarebbe una bella idea. Sì. Altra storia, classifica, dicevo, giornata transitoria per la classifica. Aspettiamo la Roma, ma hanno vinto tutte quelle di testa. Distacchi invariati, magliette strappate e spogliarelli, ma mica si poteva buttare fuori Albiol, se no apriti i cieli. Pardo. Chi risponde, Pier? Pardo, sì. Voglio sentire Pardo. Beh sì, no, sicuramente ci sono stati questa settimana degli episodi arbitrali, meno che in quelle passate. Stasera ci attende Cross, una serata spero un pochino più tranquilla, però affronteremo questi temi. Sicuramente il caso Albiol è un caso, poi non so se poteva condizionare e quanto potesse condizionare la partita, però sicuramente è esistito ed è stato commesso un errore, ma io ripeto quello che dico dall'inizio della stagione, a costo di risultare sgradevole a qualcuno e invece simpatico a qualcun altro, a me questo non sembra un campionato con un vento, con una tendenza, con una spinta da una parte o dall'altra. Io, avendola commentata, posso dire, ma ripeto, è l'eccezione di un campionato, posso dire che Torino-Juve, dove ci sono stati una marea di errori, è stata una partita che a un certo punto poteva girare in maniera diversa, e certamente col Napoli a meno 3 poteva essere qualcosa che poteva cambiare, ma in generale non mi sembra un campionato... assolutamente un campionato adottato, disegnato nelle stanze oscure, ma assolutamente no, mi sembra un campionato, anzi, dopo tanti anni veramente tranquillo, sereno. Problema che c'è una squadra che vince 22 partite su 23 e cosa vuoi fare? No, ma la mia preoccupazione è per il futuro, perché cioè, non si vede un orizzonte sul dominio della Juventus, Cross. No, anche perché comunque è un dominio tutto sul campo, è una fesseria pensare che ci sia qualcos'altro. Questo campionato si è accorciato solo perché la Juve aveva, mi pare, 10 punti dopo 12 partite, o 12 punti dopo 10, sì, forse 12 dopo 10, perché ha perso le prime due, perché non andava avanti, altrimenti non dico che avrebbe 17 punti come negli ultimi due anni, ma indubbiamente la forbice è ampia, la distanza... si è ridotta appena un pochino, forse proprio perché la Juve si è data un handicap, ed è difficile immaginare se possa non vincere anche il sesto, il settimo, l'ottavo, perché gli altri ci sono, ma secondo me sono troppo lontani per tutta una serie di ragioni. Poi i pilastri della Juve stanno invecchiando, ci sono anche dei giovani, però indubbiamente questo è lo scudetto di Buffon soprattutto, ma anche di Dybala, insomma è uno scudetto di... dei vecchietti della difesa, quindi lì bisognerà vedere se il ricambio garantirà lo stesso livello, la stessa qualità. Però a me sembra che siamo sempre a parlare delle stesse cose, che prima era la Roma negli ultimi anni, poi un po' il Napoli, poi è sparito, poi è tornato, ma ripeto, questi si avvicinano solo se il ciclista in fuga rallenta, se si ferma a mangiare un panino fa la pipì dietro un paracarro, gli altri si avvicinano, ma poi quando risale in sella, arrivederci. Senti, a questo proposito, Maurizio, a questo proposito, per chiudere, tra le facce sporche della rubrica, anche quella sanguinante di Elia Viviani, aggredito da una moto, sta diventando un problema seriale. Sì, questo è veramente inaccettabile, cioè devono ridurre il numero delle motociclette, dei mezzi a seguito delle corse, anche perché qualcuno prima o poi ci lascia la pianza, purtroppo è anche successo. Però può succedere in maniera come dire, continuativa, regolare, è successo persino troppo poco, e lo dice uno che ha seguito e segue il ciclismo anche dall'interno del gruppo, e vedo le evoluzioni folli che fanno i mezzi, troppi assolutamente. Va regolamentata la materia prima che sia una strage, i ciclisti li si condanna e li si addita solo quando hanno o hanno avuto hanno problemi con la chimica, e per tutto il resto sono esposti a qualunque rischio, a qualunque maldicenza, a qualunque offesa, ed è un'offesa quella del rischio della vita continuo che il gruppo non può accettare. Che sia il Tour de France è come la gara degli allievi marchigiani, anche perché in bici muoiono tanti ragazzi, e non lo si dice mai, si muore molto più che in Formula 1 o che nel motociclismo, molto più pericoloso. Motori, però non si fa abbastanza per evitarlo. Ma un abbraccio. Grazie. Anche a voi, ciao. Grazie, ciao. Maurizio Crosetti, che ritroverete stasera nel salotto di Pardo, giusto? Sì, assolutamente. Quindi potete proseguire questi discorsi, noi li proseguiremo invece. I nostri, subito dopo la borsa, il campionato più falsato della storia, quando scoppieranno gli scandali, vi chiamo, ma può chiamarci anche prima, Marco, 800 24 00 24, così ci spiega perché è il campionato più falsato della storia. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Fa salire anche Abate, che si prepara per il cross. Parte un cross, teso, attenzione, diventa un tiro! Balotelli prova a tirare a giro, Buffon ci arriva, attenzione, si salva miracolosamente, miracolo. Miracolosamente nel secondo intervento, ma il miracolo lui lo fa nel primo, perché veramente fa una parata strepitosa che veramente solo Buffon può fare. Attenzione a Bacca, si gira, gran tiro, Balotelli tutto solo, incredibile, poi palla dentro, no. Giallo per lui, ha toccato con la mano. Incredibile, ancora una volta, Buffon. Che occasione qua! Complimenti al Milan, che ha fatto una bella partita, ha trovato sulla strada in due momenti decisivi Buffon, nel primo tempo anche se stavamo ancora 0-0, ma soprattutto quella del secondo tempo. Sicuramente Buffon ha fatto due grandissime parate, due, tre grandissime parate, e ha fatto la differenza. Quanti anni ha esattamente Gigi Buffon? Che questa sera non dimostrava quelli che ha. Molti meno di quelli che ha, perché non soltanto per le parate, ma per lo spirito che ha ancora, la voglia di dare, di comunicare la grinta, la voglia di vincere a tutta la squadra, è quello che è impressionante di Gigi. Sicuramente anche le parate, ma chi lo conosce, chi lo vede fuori dal campo, sa che è ancora più carico e decisivo anche fuori. Che prodezza Buffon, eccezionale. Questa è la chiamata tua, Pardo. Eccezionale. Come va? Senti, levati quei pazzi, folli 10 giorni tedeschi tra Bayern e Nazionale, Buffon ha messo il sigillo, se serviva un sigillo, su una stagione da numero uno europeo. Sì, beh, ma Buffon è come il vino, banalmente, ed è... E secondo me il capolavoro di Buffon, come dicevo prima, è stato fuori dal campo, è stato in quelle dichiarazioni che abbiamo ascoltato dopo Sassuolo Juve, non tanto per le dichiarazioni, che alla fine erano molto, lascia il tempo che trovano, perché evidentemente, certo, oltre che farsi, certo, sentire a mezzo stampa, si sarà fatto sentire dentro la squadra, dentro lo spogliatoio, e lui è stato, secondo me, con gli altri veterani, capace di compattare la squadra, di dare una mano ad Allegri, E quindi secondo me, se dovessi dire, il capolavoro vero della stagione di Buffon è quello. Poi ci sono... Beh, c'è il record, ci sono quelli scritti sul campo. C'è una parata pazzesca in Juve-Torino, che è la partita della, quella dell'andata, dalla quale comincia la rimonta. C'è Milan-Juve, certamente Milan-Juve l'altro giorno, è stata una partita, non voglio dire decisa da Buffon, ma lo dico. Sì, assolutamente. Comunque, fortemente condizionata. Fortemente condizionata dal signor Buffon. Certo. Quindi benissimo, stiamo parlando di... Stiamo parlando di un grande atleta, come dicevo ieri. Abbiamo bisogno di lui un mese in più, Pierino. Abbiamo bisogno di lui a giugno. Come dicevo ieri, poi la cosa che mi fa particolarmente piacere sottolineare è che la grandezza di Buffon come personaggio, come atleta, passa la longevità di Buffon attraverso anche dei problemi, delle fasi complesse. Sì. Quindi mi piace ancora di più, se possibile, perché non è un campione perfetto, non è un robot. È uno che ha fatto degli errori, ha avuto dei problemi, delle paure, delle ansie, le ha superate. Quindi in questo senso rappresenta perfettamente la vita di tutti noi, no? con le fasi più positive, con le fasi meno positive. E però chiaramente poi c'è un talento straordinario, sia come calciatore che come comunicatore, è anche molto bravo a comunicare, sì. Questo, ma questo secondo me alla fine è l'ultimo degli aspetti, secondo me è grande in campo ed è grande nei comportamenti dentro lo spogliatoio. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Chiedo scusa per la voce un po' così, un po' raffreddato. Comunque, volevo portare un piccolo contributo, diciamo una testimonianza per quanto riguarda gli scontri di ieri. Sì. Io ovviamente, essendo di Palermo, conosco la città. Quella via dove ci sono stati gli scontri, quelli intendo durante il giorno, il famoso video del tizio preso a calci a terra. Sì. Quella via si chiama Via Libertà. Sì. È una via del centro di Palermo. Per intenderci, soprattutto in quella zona lì, è la via dei negozi di lusso. Sì. Ecco, due cose importanti. Insomma, la prima è che dal punto di vista geografico quella via lì non c'entra assolutamente nulla con lo stadio. Proprio è lontanissima. Sì, infatti, e seconda cosa, non c'entra neanche come itinerario, perché... Era della gente che era lì all'ora di pranzo, mi pare, quindi non è necessario. È come fosse via del Corso a Roma. Come via del Corso a Roma, certo. Il fatto che non deve succedere né lì né dall'altra parte, non c'entra nulla che il fatto che sia vicino, la collocazione geografica. Quindi però, aspetta, facciamo finire. Quindi era un appuntamento, questo ci sta dicendo? Questo volevo dire. Perché per zona e per itinerario, perché quella strada lì, come senso di marcia, è il senso esattamente opposto rispetto allo stadio. Quindi non c'era alcun motivo per cui due tifoserie dovessero... Aspetta, mancavano 7 ore alla partita, Sì, infatti. Quindi voglio dire, forse stavano andando a mangiarci è quello che penso anch'io, non penso sia stato un appuntamento tra delinquenti. Può starci, però io quello che voglio dire... salutiamo Degli Orossi insieme. Certo. Che è un piacere risentire. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come Buongiorno stai? Pierluigi. Ciao. Ciao. Poi, dicevi, Pier. No, dicevo sul discorso di prima che faceva Grosetti, che diceva adesso invitiamoli in Parlamento, facendo giustamente una battuta che ha un suo fondo di verità, perché, ripeto, l'imbarazzo per quel luogo lì, lo ribadisco, la sala per i Carutini in Assiria, tante volte agli stadi abbiamo sentito degli slogan contro i Carutini in Assiria da accapponare la pelle, quindi l'aspetto simbolico è fuori discussione, però secondo me, ribadisco il concetto, bisogna fare qualcosa, e quindi se per questo fare qualcosa c'è bisogno di capirsi e di parlarsi, in generale secondo me non è sbagliato. È chiaro che quell'immagine dell'altro giorno stride ancora di più, perché proprio ieri, dopo un po' di settimane, ci sono stati dei tafferugli. Certo. Però magari quella è una lista che non ha niente a che fare con l'incontro dei giorni scorsi. Insomma, io quello che dico è che si può vivere benissimo, come succede per esempio in Inghilterra, in un paese senza gruppi ultra, senza tifo organizzato, con i tifosi che vanno singolarmente a vedere la partita. Lo si può fare, però se questa cosa in Italia non succede è perché o non la si vuole fare, o perché evidentemente a noi italiani piace così. E allora, se questo è lo stato dell'arte, tutto ciò che può essere utile per costruire un dialogo, per evitare episodi violenti, secondo me in assoluto non deve essere, non deve essere colpevolizzato. Poi è ovvio che se invece ci si rende conto che gli ultra hanno come unico obiettivo quello di avere dei benefici personali e non danno tra virgolette niente in cambio, beh, questo sarebbe grave. Sì, certo. Ma che ci possa essere invece un mettersi attorno a un tavolo e cercare di capire se si riesce a migliorare il clima negli stadi, ma perché no? Mi sembra un esercizio di realismo. Voglio Rossi, vuole aggiungere qualcosa a questo? Fermo restando che mi riesce difficile dare un giudizio al di fuori del calcio, però io personalmente sono convinto che queste persone riconoscano una a una sia la società e soprattutto le forze dell'ordine. E quindi cioè, nel momento stesso che sono persone, anche perché uno che delinque allo stadio, nelle vicinanze dello stadio, significa che delinque anche nella vita, cioè non penso che... E per di più... Che faccia chiarichetto nella mia vita. Nella mia esperienza mi dice che queste persone si conoscono per filo per segno, quindi molto probabilmente non si vuole risolvere il problema, o perlomeno vogliono tenerli allo stadio, magari li controllano meglio, non lo so, sono sempre gli stessi, quindi... Sì, che conosciamo tutti. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi con Dario Rossi vorrei approfondire il discorso invece sul calcio e su due squadre che ha attraversato e che stanno vivendo un momento stranissimo. Una è la Fiorentina e l'altra il Palermo. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, questo volevo chiedere a Delio Rossi, di due squadre che ha attraversato, e magari qui vuole ancora bene, Fiorentina e Palermo. Fiorentina in caduta libera dal punto di vista della classifica, dell'alta classifica, gli avvoltoi che si avvicinano a Paolo Sosa. Fossi nella dirigenza prenderei fucile per abbattere gli avvoltoi, non me lo farei portare via un allenatore così. A Palermo invece siamo ormai alla caricatura, perché c'è Ballardini che sta parlando con il presidente ed è probabile un nuovo cambio. Sono due cose completamente diverse. Totalmente diverse, questo è evidente. La Fiorentina, almeno a vederla giocare, penso che ha perso un po' di brillantezza, non riesce magari a tenere le linee così strette come faceva prima, e quanto si allargano gli spazi, poi vengono fuori i problemi. La dice lunga magari vedere Kalinic che ha fatto un gol girone di ritorno invece di non andare, è stato magari l'elemento che riusciva a finalizzare tutto il gioco, che riusciva a esprimere la squadra. Sul discorso del Palermo, ieri ho visto una squadra molto molto impaurita, e penso che una squadra che è stata in balia dell'avversario non ha reagito, ma questo dall'inizio, e quindi c'è da preoccuparsi in quelle situazioni. Non so se un altro cambio possa risolvere la situazione. Ma probabilmente impaurita proprio per quello, perché non si raccapezza più con tutto quello che le è successo intorno e dentro. È difficile, credo, anche per un giocatore, oltre che per un allenatore, gestire una situazione di quel tipo. Sì, anche perché l'esonero di un allenatore è sempre una sconfitta, prima di tutto per la società, perché significa che ha fatto una scelta e se la sta rinnegando. E consideri lei 8-9 allenatori, significa in un certo qual senso anche sbandare questi ragazzi, perché ieri, al di là del valore che è diverso tra la Lazio e il Palermo, li ho visti proprio una squadra che impaurita, si vedeva dalle facce, dagli occhi. E questi sono segnali pericolosi sotto questo punto di vista, per molestando che dal punto di vista tecnico magari è superiore anche alle dirette concorrenti, però le altre in questo momento sanno che il loro destino passa da lottare su ogni pallone e magari da vincere gli scontri diretti, e non so Palermo se c'ha questa forza in questo momento. Non dà quest'idea, il calendario non dice bene per il Palermo, per Luigi. Sì, io vedo bene il Carpi. Vedi bene il Carpi nella lotta. Ho fatto uno studio stamattina del calendario e vedo il Carpi favorito per la salvezza. Palermo mi sembra in una crisi profondissima. Frosinone l'ho commentato l'altro giorno, al Matusa fa buone cose, però la sensazione è quella partita lì sia stata veramente una partita che rischia di essere quella decisiva, perché non meritava di perdere, poteva addirittura vincere. Adesso va a Verona con i due centrali di difesa squalificati, e quindi non è semplicissimo. Verona-Frosinone è una partita molto importante, e anche il Verona teoricamente ha ancora delle possibilità, però il Carpi, guardando il calendario, mi pare alle tre partite in casa con tre squadre abbastanza tranquille, il Genoa, se non sbaglio Genoa, Empoli e Lazio, a una trasferta a Udine verso la fine della stagione, forse l'ultima giornata, mi sembrava un calendario a Milan e Juve fuori casa, insomma sì, 4 partite su 6 secondo me giocabili, mi sembra quella che in questo momento fra condizione e calendario quella messa meglio. Degli Rossi, Sarri votato da una giuria qualificata allenatore dell'anno, è d'accordo? D'accordissimo, penso che ha dimostrato che molte volte si fa dei luoghi comuni, che un allenatore, soprattutto la gavetta come Sarri, che ha fatto spesso la categoria inferiore, ha dimostrato e sta dimostrando di essere un tecnico a tutto tondo, quindi non d'accordo ma bensì d'accordissimo. Secondo lei, con Pardo spesso ne parliamo, può crescere dal punto di vista della gestione dell'alta classifica, dal punto di vista anche della comunicazione? Io penso che un allenatore deve essere, cioè penso che queste sono cose migliorabili, non sia migliorabile quando tu non riesci a far giocare bene la tua squadra, penso che sia più facile studiare per migliorare questo o perlomeno avvalerti di persone che ti possano aiutare che piuttosto invece magari che non sanno lavorare sul campo. Sì. Io personalmente, per dare una valutazione ad un giocatore, non è che vado a vedere cosa dice, vado a vedere come giocano le sue squadre e che tipo di lavoro fa. Se giocano bene e vedo che c'è un lavoro dietro, secondo me è un bravo allenatore. Se poi parla bene, ce ne sono tanti, e poi magari le sue squadre non giocano all'altezza o perlomeno non esprimono un'idea di gioco, molto bene. Rimangono solo dei chiacchieroni, insomma. Rimangono solo nel senso che, fermo restando che ci sono diversi tipi di allenatori, ci sono allenatori più istruttori, Sarri mi sembra uno di questi, ci sono allenatori più gestori, certo. E ci sono chi è una via di mezzo, ma ci sono tipi di allenatori completamente diversi. Chiaramente l'allenatore istruttore gli chiedi di meno il discorso di comunicazione, l'allenatore gestore invece vive di quello. Piero, un'ultima domanda per Delio. E la Lazio, che sensazioni hai? Ieri ho letto su Facebook Guido De Angelis, che in preda a questo strano feeling del post partita su Facebook ha dato 4 a tutti, perché per tutti era Malderby doveri. Insomma, c'è la sensazione, al di là dei demeriti del Palermo, che sia stata un po' un tappo di champagne che improvvisamente si viene stappato, una squadra completamente diversa rispetto a una settimana prima. Ma di solito nel breve periodo il cambio allenatore altera le gerarchie, rimette tutti in discussione, soprattutto anche quei malintesi, quelle situazioni che in un certo qual senso paradossalmente anche riesce anche a colmare gli errori della società, perché automaticamente si dà la colpa al vecchio tecnico e quindi automaticamente si riparte tutti da zero. Poi bisogna vedere se nel lungo periodo questo paga, perché ritorniamo al discorso di prima, cioè vista la squadra ieri sera sembrava una squadra trasformata, però sono d'accordo con Guido De Angelis, una settimana prima una partita sicuramente più importante per la gente, per la classifica, per tutto, sembrava un altro tipo di squadra come atteggiamento, quindi non penso che basti andare una settimana a Norcia per cambiare completamente una certa situazione, quindi bisogna vederla nel lungo periodo e soprattutto bisogna essere dentro le situazioni. Sicuro. Che noi non sappiamo cosa possa essere successo all'interno dello spogliatoio, anche perché sicuramente almeno per la Lazio qualcosa è successo, qualcosa di extra tecnico, certamente non si può spiegare il campionato dell'anno scorso col campionato di quest'anno. Grazie degli Orossi, devo salutare al volo anche Pierluigi Pardo, ci vediamo stasera su Tiki Taka. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Molti ascoltatori mi accusano di non aver ancora aperto il capitolo delle moto, alcuni con il solito tatto, come questo che non si firma ieri il vostro evasore fiscale caduto dalla moto, che goduria. Ovviamente parleremo del moto mondiale, c'è già qui con me Roberto Ungaro. Ciao, ciao Carlo, un saluto ciao, a tutti. Ciao. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea con cui facciamo due chiacchiere al volo, 80024 0024, Gianmario, buongiorno. Buongiorno Genta. Dica. Come sta? Molto bene, grazie, lei? Ok, va bene, grazie. Volevo vedere come ne uscite lei e il dottor Pardo. Da cosa? Si ricorda che Io qualche mese fa avevo telefonato riguardo la Fiorentina, sì, dicendo che era una squadra mediocre e soprattutto che avevamo una dirigenza a dir poco ridicola. Lei continua a ripetere che invece noi tifosi fiorentini non dobbiamo lamentarci perché è la maggior proprietà e via via. Adesso cosa dice invece? La stessa cosa, non ho cambiato idea. La Fiorentina è un'eccellente squadra guidata in modo magnifico da Paolo Sousa. L'unica cosa che dico è che sarebbe ora che, visto che è corteggiato da molti su tutti gli emissari dello Zen che sono andati a vederla ad Empoli, e questo lo sanno tutti, la Fiorentina dovrebbe difendere il suo patrimonio, la dirigenza dovrebbe difendere il suo patrimonio, in primis il suo allenatore. Intanto pare sia ufficiale, Ballardini torna sulla panchina del Palermo. Numero di allenatori cambiati, li ho perso il conto, aiutatemi voi se ci riuscite in questa stagione, naturalmente. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei, Genta. Dico. Senta, una considerazione, premesso, sono un tifoso del Napoli. Intanto, chapeau per la squadra più forte che la Juventus. Nulla, sì, da ridire, uno dei segnali è che una società seria fa programmazioni, vedi anche la primavera. Però, perché io sono un vostro assiduo ascoltatore, non possiamo non considerare che esiste una sudditanza rispetto alle decisioni arbitrali. So che lei è una persona equilibrata, non può negare questa faccenda. L'ascolto per radio. Grazie. Grazie a lei. Anche lei mi sembra una persona molto equilibrata. Io ho sempre detto che secondo me la sudditanza psicologica esiste. È qualcosa di intangibile, ma non esiste solo nei confronti della Juventus, esiste nei confronti mediamente di tutte le grandi squadre, e il Napoli, la Roma, l'Inter, il Milan, sebbene in ribasso, sono grandi squadre, e quindi per un arbitro è fondamentale arbitrare grandi partite ed è fondamentale arbitrare queste grandi squadre. Da ciò deriva quell'intangible, come dicono gli americani, che è la sudditanza psicologica. Non esiste, adesso esiste la sudditanza psicologica anche nei confronti di Marquez, che secondo me a Roberto Ungaro non lo prendono più. Copertina. Intanto qua Dovizioso ha questi tratti in cui poter sfruttare la grande accelerazione della sua Ducati. Vedete che Pedrosa fa fatica a tenere la scia, di norma dovrebbe accadere il contrario quando sei vicino al pilota, davanti largo, ha preso pieno. No, l'ha preso pieno. È molto carino Pedrosa che va a sincerarsi delle condizioni di Dovizioso, no. Mannaggia, no, povera Stella. Sul muretto tutto il team di Marquez che butta in piedi la sua moto a guardare il cielo del Texas. Marquez c'è, vince il Gran Premio degli Stati Uniti, fortifica la sua prima posizione. Contento, vedendo come andava prima di iniziare il campionato, molto contento. Sì che è certo che le altre hanno fatto qualcun errore, ma alla fine noi dobbiamo stare là, dobbiamo provare di spingere tanto, e contento di come è andato. Abbiamo salvato una situazione molto difficile, che nel warm-up sembrava difficilissima, e con questo podium, finendo la gara, anche se abbiamo girato molto piano, mi fa pensare che quando arriviamo in Europa a piste più adatte alla nostra moto possiamo provare di vincere qualche gara. Sono entrato alla 2, probabilmente 2 metri più stretto perché avevo Pedrosa a sinistra e ho preso la buca e mi si è chiusa, quindi ho sbagliato e sono caduto. Purtroppo quest'anno con queste gomme, se sbagli non perdonano, e oggi ho sbagliato. Allora, questo è il riassunto sonoro di ciò che abbiamo visto ieri in tarda serata italiana ad Austin, Texas, Roberto, con Rossi che dice ho sbagliato. Ne abbiamo un altro di Valentino Rossi, te lo faccio sentire subito così poi commenti. Valentino Rossi sulla sua ammissione di colpa. Sono entrato alla 2, probabilmente 2 metri più stretto perché avevo Pedrosa a sinistra e ho preso la buca e mi si è chiusa, quindi ho sbagliato e sono caduto. Peccato perché è stato un weekend molto positivo, abbiamo lavorato bene, ero competitivo e stamattina nel warm-up ero andato molto forte, ma anche oggi in gara mi sentivo bene, in staccata ero forte, riuscivo a essere molto, molto veloce. E purtroppo quest'anno con queste gomme, se sbagli non perdonano, e oggi ho sbagliato. Allora, così Valentino Rossi, scrivete, chiamate pure 800240024 per quel che vi pare. Quelli che ce l'hanno con Valentino Rossi sono tutti ducatisti, pensino ai piloti loro, scrive ora un ascoltatore. Beh, comunque l'ha ammesso, è ammissione di colpa da parte di Valentino, lei ha anticipato, quello che è chiaro è che Marquez è in fuga. Valentino 33 punti, 21 Lorenzo. Abbiamo rivisto il Marquez che conosciamo, guidava come sa fare lui, traiettorie uniche, stringeva tanto, spigolava e ha fatto la differenza, ha scelto la gomma morbida che al 14esimo giro lo ha mollato e lui ha cambiato posizione di guida in sella, quindi ha alleggerito un po' il davanti, è riuscito a tenere fino alla fine, grande distacco. E soprattutto, secondo me, Honda ha rinunciato un po' alle prestazioni, perché hai visto, Carlo, che all'inizio gara è stato sverniciato anche dalla Yamaha di Lorenzo in un passaggio. Quindi siamo abituati alla Ducati, ok, ma Honda è sempre stata lì a battagliare con... E invece, secondo me, hanno rinunciato un po' alle prestazioni pur di avere guidabilità, equilibrio, per poter mettere a terra la potenza. Sì, riavvolgiamo un attimo il nastro. Alle ultime prove invernali dicevamo Honda in ritardo, ma guarda quanti problemi hanno. Esatto. E allora? Mi avevi chiesto, mi ricordo, quante gare ci metteranno. Io risposi due o tre, perché Honda è Honda. È vero che ha portato un albero motore nuovo più pesante, è vero che ha una centralina molto più semplice e hanno problemi, ancora lo dicono di avere problemi, non hanno trovato il bandolo della matassa, ma Honda è Honda ed ecco la risposta. E soprattutto anche Dani, prima di cadere, era lì a podio, era in gara, quindi è resuscitato anche lui, anche se le prove, il warm up non le ha fatte bene, però conferma che la Honda moto proprio ha recuperato, perché il risultato di Pedrosa è quello. Peccato la caduta, perché davvero. Adesso ne parliamo. Abbiamo anche una voce di Marquez, di nuovo dominatore. Ma contento di come è andato tutto il weekend, contento di questa vittoria, perché non è stato facile. Voglio ringraziare soprattutto a Michelin, perché mi ha aiutato a sedere il pneumatico davanti, perché ho scelto quello più morbido, che a fine di gara era un po' limite, ma al warm up ho provato l'altro, quello che guidava tutto il mondo, e non potevo usarlo io. Dunque, parliamo di Michelin. Michelin, cioè, sulla Yamaha sembrano, ti dicevo prima, delle gomme di vetro. Eh sì, ci sono comunque problemi. Io non avrei voluto essere nel signor Michelin ieri sera, quando è anche caduto Valentino. Poi lui ha ammesso la sua colpa, ha esagerato lui. Però tante cadute, troppe, con Bridgestone non si verificava questo problema. E queste cadute sembrano condizionare tanto il mondiale di quest'anno. E un'altra cosa che direi di Marquez è come sia anche più forte di testa, cioè sembra che la fine della stagione dell'anno scorso lo abbiano comunque un po' maturato, messo a posto, e riesce a gestire molto meglio la sua esuberanza. È lì, porta a casa comunque il risultato, due vittorie e un podio, la dicono lunga. È vero che quando si ritornerà la prossima gara a Jerez inizierà un nuovo campionato, perché tu sai che Lorenzo ha praticamente firmato con Ducati, quindi si riparte da zero. La pista è più favorevole alle Yamaha, una pista dove c'è percorrenza, scorrevolezza, e le Yamaha sono fortissime lì, quindi li vedremo molto molto più vicini. Pare, vado avanti con le novità di mercato, che Ducati voglia tenere Dovizioso, quindi Iannone libero per andare in Suzuki. A questo punto KTM potrebbe prendersi Pedrosa, preferiva Dovizioso, ma a questo punto sarà Pedrosa. E Vignales, te lo confermo, sulla moto di Lorenzo. Vignales è un altro che non la manda dire, secondo me sarà divertente vederlo in squadra con Valentino. Senti, ma per Rossi ci dobbiamo, siamo solo a due gare e già abbiamo dato dei verdetti. Ovviamente io starò sbagliando tutto, però non vedo come si possa adesso mettere sale sulla coda Marquez. Ma per Rossi ci dobbiamo rassegnare ad una stagione di secondo piano. È ancora aperta, noi non siamo abituati a vedere un Vale che cade, è passato più di un anno, però è ancora aperta, ma siamo molto ma molto lontani dalla stagione dell'anno scorso, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Secondo me il campionato è molto difficile, Valentino potrà fare delle belle gare, però ritornare ad essere protagonista lì davanti non lo so, molto difficile. Tema cadute, c'è anche un messaggio di Diego 349-238-6666 800-24-0024 per le vostre chiamate. Prima o poi si scappa il morto in MotoGP, ci vuole poco a capirlo, devono squalificare se entri facendo cadere. Ieri Allora, Pedrosa non è entrato su nessuno, semplicemente scivolato. No, episodio molto diverso. A Pedrosa è partita la moto. È partita la moto, poi ha ripreso aderenza. Ha una sfiga, esatto. Ha una sfiga da monumento. Calimero, lui era lì, poteva farsi male, fortunatamente non è successo nulla, ma Iannone e Pedrosa sono due situazioni completamente diverse. Iannone è andato dentro troppo forte, non ci stava dentro, non poteva farcela, e soprattutto col suo compagno di squadra. Invece Dani ha perso il controllo, poi ha ripreso aderenza di colpo, la moto gli ha pompato le sospensioni, poi ha ripreso e inevitabilmente è andato contro proprio per la tangente, era un po' più largo Dovizioso e l'ha preso dentro. Sfiga, si può dire, ma sono due situazioni diverse. A me ha fatto ridere anche quando ha dichiarato Marquez che la Michelin, che ringraziava la Michelin perché gli ha dato una gomma molto buona, e è partito un tam tam a livello digitale. Ma allora Michelin, questi favoritismi, non è così. Michelin aveva portato delle gomme nuove, anche perché riesce a intervenire molto più velocemente di quanto faceva Bridgestone, perché proprio la costruzione della gomma è diversa. Mentre il marchio giapponese era frutto di uno stampo, e quindi quello è e quello rimaneva, prima di modificarlo ci vuole tanto tempo. Invece Michelin costruisce la gomma, sì, strato su strato dalla carcassa iniziale, modificando profilo, battistrada, tutto, e ecco che riescono a intervenire. Non è ancora risolto il problema, però lo abbiamo visto. Certo, e Lorenzo ne ha parlato. La verità è che in quest'anno stiamo vedendo che qualche moto può usare un pneumatico molto morbido davanti, qualche moto come la nostra non possiamo usarlo, no? Per noi sarebbe impossibile usare la gomma da davanti che ha usato Marquez, però sembra che con lui, con la sua guida, la sua moto, lo poteva fare, e magari lui teneva un po' di più di feeling, soprattutto nel massimo angolo, e poteva girare un po' di più. Però ugualmente lui ha fatto la differenza, no? Come abbiamo potuto osservare, gli altri piloti di Honda non hanno andato forte questo weekend, e lui su quella pista è stato imbattibile un'altra volta. Questo era Lorenzo. Intanto io continuo a parlare con gli ascoltatori, che chiamo, è 800 24 00 24, a schema libero su quello che vogliono. Orlando, buongiorno. Buon pomeriggio, salve. Mi dica. No, io ascoltavo prima le vostre dichiarazioni, anzitutto ho sentito dire questo è lo scudetto di Buffon, mi è venuto un dubbio, come se fossimo già nel mese di giugno. Mi sono preoccupato perché avevo delle polizze da pagare, forse siamo proiettati nel futuro. Non ho sentito questo, non saprei. L'ho detto io. Pare che l'abbia detto lei. Sì. Allora mi sono preoccupato, forse siamo andati avanti nel tempo e non me ne sono accorto. No, io ho detto che è una stagione da numero uno europeo. Testualmente questo è lo scudetto di Buffon. Vabbè, speriamo di no, potrebbe essere, tutti i condizionali del caso sono importanti, come diceva Nanni Moretti, no? Le parole assolutamente sarebbe, anche è ovvio che non è mica finita, anzi io faccio il tifo per un campionato che si risolva all'ultimissima giornata, sarebbe molto più divertente, e quindi a quel punto potrebbe anche essere lo scudetto di Sarri, no? Vediamo. 800 24 00 24, il numero verde. Voglio invece divertirvi con Roberto Ungaro parlando di Iannone, che ti faccio sentire subito, polemiche. Vai. Su, ovviamente è l'uomo nell'occhio del ciclone del momento e lo sa benissimo. Credo che in questo momento non è questo l'importante, in questo momento era reagire. Io credo che in questo weekend ho dimostrato la forza che ho dentro di me, perché dopo tutto quello che è successo in Argentina assolutamente non era facile, perché me ne hanno dette di tutti i colori, però sono stato forte, non ho perso la mia concentrazione, non ho perso la mia velocità come ho iniziato il campionato, l'ho sempre mantenuta durante tutto il weekend, e alla fine questa è la mia, diciamo, risposta. Cosa dici? Fa senso sentire sono stato forte. Io spero che intendesse di carattere, perché è un pilota che si dice così. No, allora, diciamo, pensa a Carlo che Ducati ha addirittura impedito di festeggiare come si sarebbe dovuto, perché il suo terzo posto, insomma, è importante. Ed è stato però tutto quanto un po' calmierato, perché il fattaccio di Dovizioso ovviamente ha condizionato un po' tutto. Ha fatto bene, ha dimostrato che lui è lì, può giocarsela, ma la manetta di Iannone non l'abbiamo mai messa in discussione, mai messa in dubbio. Lui deve maturare di testa, non fare l'errore, e soprattutto deve ancora dimostrare, permettimi, con una, almeno una, vittoria, perché il pilota può parlare quando sta davanti a tutti, il resto sono solo parole, è nero su bianco che conta. Giampaolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Volevo intervenire sul mercato piloti, visto che è uno sport che mi appassiona molto, il motociclismo. Volevo intervenire per capire questo movimento che ci sarà in futuro, se e come inciderà nell'andamento del mondiale, se cambieranno gli atteggiamenti magari anche dei team nei confronti dei piloti che sono già partenti. Questo potrebbe dare anche una dimensione diversa. Lei chiede se possono cambiare ora gli atteggiamenti dei team nei confronti, cioè per dire la Yamaha contro io l'avevo già chiesto a Roberto Ungaro, perché è un pensiero che è venuto anche a me. È un mercato piloti questo che stiamo già vivendo dopo due gare rivoluzionarie, no? Sì, molto in anticipo. È vero che a livello psicologico può un po' condizionare, ma ricordiamoci che un campionato è fatto da cose serie, da tanti soldi, e quindi piazzamenti vuole dire differenza a livello di soldoni, e il risultato va comunque portato a casa. E si è detto anche di un Lorenzo che c'ha già la Ducati nella testa, e questo un po' lo ha cambiato, è vero, però i risultati, ripetono, vanno portati a termine, anche perché ci sono degli sponsor, ci sono dei premi arrivo, e quindi questo fa la differenza. Più di tanto secondo me non potrà condizionare. Quello che speriamo è di non vedere gare come quelle di ieri, perché è stata veramente noiosa, distacchi importanti, pochi sorpassi, tante cadute. Non è il moto mondiale che vogliamo vedere. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, ci venga a trovare domani, siamo a Vinitaly, eh? Lei è di Verona? Sì, sono di Verona, esatto. Ci viene a trovare domani, siamo lì domani e dopodomani. Bene, domani c'è anche Pardo, dopodomani ha i suoi giri per l'Europa, va a raccontare qualche partita di Champions. Ben volentieri. Niente, io volevo intervenire a proposito della firma che ha fatto, diciamo, prematuramente, secondo me, Valentino, no? Cioè, col senno di poi, visto le prestazioni, e premetto che io sono un fan sfegatato di Valentino, forse non era meglio dire faccio ancora una stagione MotoGP e poi magari mi concentro su un'altra categoria, come per esempio la Superbike, dove magari più facilmente potrebbe ottenere quello che sarebbe la corona del decimo titolo, insomma, ecco. Assolutamente no, rispondo io, prendo la parola, certo. Scusami Carlo, perché conosco l'ambiente, e Valentino sarà molto molto difficile che vada in Superbike, perché devi sapere che dagli addetti al settore, non dagli appassionati, viene considerato un po' il campionato di Serie B, e quindi andare di là e vincere a mani basse o con un braccio solo non è nelle desiderate di Valentino. Lui piuttosto si divertirà, e molto, con le quattro ruote, quello sì, e si divertirà rimanendo magari manager, gestendo una squadra, già si dice che voglia una squadra, un team nella MotoGP a breve. Quello sarà il Valentino del futuro. Dorna avrà bisogno di lui, rimarrà sempre dentro, perché il campionato è baricentrico su Valentino, che corra o che non corra, questo ricordiamocelo, perché rimarrà lì comunque con la sua presenza molto ingombrante anche in futuro, e quindi sicuramente no Superbike, non è un'ipotesi da prendere in considerazione, piuttosto nelle auto. Allora, rimaniamo un attimo in America, perché ieri c'è stato il Gran Premio, ma c'è stata un'altra storia pazzesca. The Warriors have tied the record for most wins in a season, 72, with the 1995-96 Chicago Bulls. Ti presento Simone Sandri da New York, beato lui. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Dunque, ieri eguagliata, con possibilità di fare meglio, una squadra che ha fatto epoca nell'NBA, i Chicago Bulls di Jordan, Pippen, Rodman, Phil Jackson, eccetera. Eguagliata da chi? Da questi ragazzi. Eguagliata a 72 vittorie in stagione regolare, con possibilità, dimmi. No, dicevo, eguagliata da una squadra, innanzitutto una squadra spaziale, perché quest'anno ha fatto qualcosa di veramente incredibile, con la possibilità di superarlo mercoledì prossimo contro Memphis, ma soprattutto veramente per dare il senso di questo, che il record sia questo, hai voglia di dire che i record sono fatti per essere battuti. Questo è uno di quei record che nessuno avrebbe mai pensato che potessero essere neanche avvicinati, perché la regola dello stile NBA è talmente devastante, talmente difficile, che fare quello che hanno fatto i Bulls 95-96 e quello che hanno fatto questi Warriors è assolutamente spaziale. Non perdere, per dare il senso della cosa, non perdere mai due partite di fila in una regular season di 82 partite, con le trasferte lunghe, con a volte un po' la monotonia, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, quando comunque i playoff sono lontani, è qualcosa di incredibile, che la dice lunga sulla solidità, soprattutto mentale, di questo gruppo assolutamente straordinario. Senti, un'ultima cosa, Kobe Bryant, dopo domani, quando sarà la prima luce del mattino in Italia, appenderà le scarpe a chiodo. Oggi abbiamo parlato di anziani campioni, ne stiamo facendo, stiamo parlando di Valentino Rossi, abbiamo parlato di Buffon, abbiamo parlato di questa carica dei 37-38 anni che smettono, ci alziamo in piedi, li applaudiamo, però ci scende una lacrimuccia. Beh, di sicuro, considerato che ieri Kobe Bryant ha praticamente verso la fine della sua carriera, manca ormai 4 giorni, perché da quando stava l'ultima partita della sua carriera incredibile, ha fatto 35 punti a Houston, per cui la lacrimuccia scende ogni volta che lo si vede giocare, ogni volta che lo si vede fare i suoi movimenti spaziali, e tra parentesi, si rattuccia da niente mercoledì, cioè Golden State che ha fatto il titolo per il più grande record della storia dell'NBA, 53 vittorie, e l'ultima partita nella storia di uno dei più grandi giocatori di sempre, una serratuccia da niente per la NBA mercoledì. Eh sì, e poi playoff, ci sentiamo allora, ciao Simone, grazie. Ciao, grazie. Io volevo chiudere con Roberto Ungaro, ancora 30 secondi, dammi un voto alla gara di Fenati. Beh, è un buon 8.5, buon 9, ce l'ha tornato fatta a vincere, sì. Dopo tanto tempo. Ce n'era bisogno, perché si iniziava a dubitare del suo talento, quello ne ha, però deve, ripeto, un pilota deve portare a casa la latta, la coppa, il nero su bianco, quello che c'è scritto lunedì, conta quello, e tutto il resto sono solo parole. Non ne avremo ancora molte da dire. Molte. 24 aprile si torna in Europa, Jerez in Spagna, e lì riparte un campionato che secondo me sarà più interessante. Tutti a caccia di Marquez. Sai cosa facciamo se ci riesco? Andiamo a fare un tutti convocati in diretta al Mugello. È un'idea che mi è venuta così. Sarebbe molto, molto bello. Sarebbe mica male. Studiala al Vinitaly dopo qualche bicchiere. La studio al Vinitaly a partire da domani. Domani e dopo io e Pardo siamo lì per tutti convocati. Vi aspettiamo. Grazie, Giorgio De Luca, nostro autore. Gianmarco Veronato in regia, Federico Bini in redazione, ovviamente Roberto Ungaro, The Voice. Ciao, saluti. Un saluto a tutti.